tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale. Partiamo dalla Repubblica dell'11 dicembre, Biotestamento, firmato il decreto per la banca dati. A 2 anni dalla sua approvazione, la legge sul biotestamento è finalmente operativa. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato il decreto apposito. Da segnalare sul Fatto Quotidiano dell'11 dicembre questa lettera di certo signor Guido Bertolino contro i crocifissi. E gentile direttore, per cortesia, spieghi che togliere i crocifissi dalle scuole e anche dalle aule di giustizia non è segno di un quinquinternato laicismo, ma affermazione del principio di laicità dello Stato, riconosciuto e affermato anni fa dalla Corte Costituzionale, quale principio fondante della Repubblica Italiana, la quale non è una repubblica confessionale. Il crocifisso è un simbolo religioso che i cattolici se lo tengano. Sempre sulla laicità, all'estero, Francia, alla guerra dei presepi. Da Béziers alle Alpi, polemiche sulle natività nei luoghi pubblici. Dalla Prealpina, che è il giornale di Varese, del 10 dicembre. Raid contro i presepi in provincia di Milano, distrutta la casetta in legno realizzata davanti alla chiesa. I soliti ignoti. Pregnana milanese, in provincia di Milano. Sempre sui presepi, lite sul presepe di Stato, usate quei soldi per altro. Dalla Repubblica, sempre di questo mese, Veneto e Lombardia stanziano fondi, protestano presidi, sindacati e associazioni laiciste. E segnalo che in arrivo in televisione, ed è stato segnalato ampiamente anche in copertina, dal venerdì di La Repubblica del 5 dicembre, ecco tutti i segreti del nuovo Papa. John Malkovich, Cécile de France e Ludivin raccontano la serie di Sorrentino, Giovanni Paolo III. Sempre nel campo dell'anticlericalismo ricordiamo la Tosca anticlericale, quegli spunti anticlericali nel clima teso, dal giorno del 7 dicembre. L'Italia era unita, ma l'editore Ricordi era consapevole dei rischi di una prima a Roma, quindi la fece da un'altra parte. La bieca persecuzione del capo della polizia pontificia ai danni di 2 amanti indifesi. Ricordiamo che a Roma c'è ancora all'archivio di Stato l'archivio della polizia pontificia che arrestava e torturava i patrioti. Allora, dal Fatto Quotidiano segnaliamo una grande inchiesta sui preti pedofili, Sherlock, la parrocchia degli abusi. Genova, quel prete deve sparire, storia di Don X, uno scandalo celato che oggi riemerge, sacerdote accusato di molestie ai ragazzi. E una grande inchiesta su 2 pagine e l'autore è sempre ispiratore, è il Francesco Zanardi di reteLabuso.org. Sempre il Fatto Quotidiano prosegue l'inchiesta contro i preti pedofili il 5 dicembre. Don Franco ci diceva, baciatemi come gli apostoli con Gesù. Di cosa stiamo parlando? Di preti pedofili. Aggiornamento, abusi a Genova, nuove testimonianze. Ricordiamoci, segnalare le vostre storie nascoste a sherlock@ilfattoquotidiano.it o anche a Rete L'Abuso. Sempre il Fatto Quotidiano prosegue una grande inchiesta sui preti pedofili il 6 dicembre. Preti pedofili e omertà. A 17 anni da spotlight tutta la Chiesa ha fallito. Parla Michel Rezenz del team del Boston Globe che ispirò il famoso film premio Oscar. Campane spaccatimpani, troppo rumorose. Multa al parroco di Cerami in provincia di Enna. Parroco multato perché le campane superano i limiti di rumore. È accaduto a Cerami. 1.000 euro pare sia sia la multa di 1.000 euro. Polonia, dall'Avvenire del 21 novembre, pagina 21. Polonia, quella memoria difficile con cui dialogare. È arrivato in Italia il libro inchiesta sulla strage degli ebrei di Jedwabne in Polonia, che non fu fatta dai nazisti ma da bande di cattolici irregolari, sempre ispirate da preti fanatici. Il Corriere della Sera del 4 dicembre si concentra invece su Santa Sede e Finanza e ci svela gli sprechi e le ricchezze del Vaticano. Il Vaticano socio di Lapo Elkan, soldi anche al film su Elton Jones. 10 milioni di euro del Vaticano per una quota del gruppo di Enrico Preziosi, patron del Genova. Capitali della segreteria di Stato papale, operazioni con base a Malta. Ricordiamo infine ancora il buco da 23 milioni di frate francescano Renato Beretta, bustocco ad honorem, dalla Prealpina, giornale di Varese del 31 agosto. Aveva perso i soldi delle casse francescane in spericolati investimenti. Riuscì a far sparire 23 milioni di euro. I disastri del clericalismo: nel 2050 saremo 9,7 miliardi. E cosa si può fare per impedire questa proliferazione incontrollata con micidiali effetti sul clima della popolazione della Terra? E secondo quest'autore, Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, parla appunto di consultori, parità di genere, educazione femminile. E sulle disgrazie del clero, provocate dal clero indirettamente, abbiamo il giorno di Sant'Ambrogio a Milano. Invece di fare un bel miracolo per festeggiare la sua festa, Sant'Ambrogio dormiva perché ci fu un gravissimo incidente stradale con morti e feriti proprio a Milano, proprio il giorno del santo. Concludiamo con la sparizione di un prete a Roma. Sconcerto dei fedeli, il parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino è scomparso nel nulla. Don Nicola Finippi, da 3 anni parroco della parrocchia di Piazza Ungheria a Roma, è sparito lasciando solo una lettera in cui non ha spiegato niente. La chiesa di San Roberto Bellarmino, nel pieno del quartiere Parioli, non ha più un parroco. Don Finippi, da 3 anni al servizio di 11.000 fedeli, è sparito senza lasciare traccia. Saluti a tutti. We'll be right back.